Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, ottobre 2009. Anziana uccide vicina di casa. Doveva essere solo una puncicata, dice. Ma che vogliono ancora quelli? Che gridano? Maledette bestie, maledette le loro voci, maledetta la loro gioia. C'ho 78 anni io e devo stare qua tutti i giorni a sopportare le grida. Ma non ci vanno a scuola quelli? E la madre? Che fa la madre? Con la sgualdrina sta sempre al telefono. Che dovrà dire di continuo? Con chi parla? Eccoli lì, sul ballatoio, a fare i besti come le bestie. Che sono? Bestie sono, mica sono normali. Sono dei piccoli ratti, mica sono normali. I miei figli sì che sono a posto, lavorano sodo. Tutti i giorni si spaccano la schiena. Quelli no. Quelli sono sporchi, ridono, corrono. Ma che fanno? C'ho 78 anni io e li aggiusto mo. E mo basta, mo basta. Ancora schiamazzano, si prendono gioco di me. La più grande, la femmina, mi ride in faccia. Sgualdrina anche lei. Ma quanti anni c'ha? 11 anni ed è già pronta per il marciapiede. Fanno così adesso. Lo hanno detto per televisione. La odio quella impunita. E il piccolo? Lui è terribile. Adesso che vuole? Sputa. A me mi sputi, alla mia casa, sulla mia finestra. Mo ti faccio vedere io, bestia. Mo vedono. In cucina devo andare. Devo prendere una cosa. Mo vedono i ratti. Eccolo qua. Questo fa male, questo taglia. Mo li concio e non ridono più. Il più grosso ho preso, il più lungo, quello della carne. Lo usava mio marito per tagliare il manzo. Buon'anima, se ci fosse ancora. Zozzone ubriacone, altro che. Mi hanno visto uscire. Scappano adesso le bestioline. Non ridono più. Non sputano più adesso. Si sono chiusi in casa. E che sarà mai? Non mi fermo io. C'ho 78 anni, ma mica mi faccio prendere in giro. Suona la porta. Vedrai che la cretina apre. Eccola qua, l'impunita. Ha le braccia sui fianchi. Sta per dirmi una parola. Ma non fa tempo. Ci vuole un attimo. Il coltello che entra in mezzo alla pancia, come nel burro. Che bella faccia fa adesso la sgualdrina. Senti come gridano le bestioline. E guarda come scappano. Troppa fatica a corrergli appresso. La madre è cascata a terra. Così impara. Quanto sangue ci sta sul pavimento. C'ho 78 anni io, ma mica mi faccio mettere i piedi in testa. Torno a casa mia. E me ne sto qua, adesso, seduta sul divano, a guardare le teste della gente che corre sul ballatoio. Senti come gridano. Stanno cercando me. Tutti ci stanno. Pure quegli zozzoni degli arabi. Ma che vogliono? Io qua sto. Dove posso andare? E quelli chi sono? I medici sono arrivati con la barella. Tanta è morta. Ci stanno pure i carabinieri. A me suonano. A me cercano. Ma che vogliono? Sì, sono io. C'ho 78 anni e non mi faccio mettere i piedi in testa. E che avrò mai fatto? Una puncicata volevo darle. Solo una puncicata. Alessandro Bertante, in libreria con Al Diavol, Marsiglio, 245 pagine, 17 euro.